diciamo che senza che Milan Barça debba sentirsi offeso, la vera notizia del giorno è il passaggio del turno della Poel. Bravissimo. Perché non era mai successo, perché questo è un successo di Platini, che però non deve dimenticare che ci sono in giro Lotte, l'Ulgalati, il Genk e tutto il resto. Noi non dobbiamo dimenticare che l'Apoel ha iniziato questa avventura ai primi di agosto, a metà luglio, ha iniziato dal secondo turno preliminare della Champions League, quindi ha fatto secondo, terzo turno più playoff, quindi ha fatto tre turni per poter entrare nella fase a gironi, quindi diciamo che l'ha presa un po' alla lontana, ed è una parte non piccola, non piccolissima della rivoluzione. Poi, per carità, sarà una cosa sporadica, io non lo so, però comunque questa piccola bandierina, e la Poel può anche vincere il girone, e a questo punto si innesta il discorso che stavi facendo tu, a questo punto se la Poel vince il girone, arrivare a secondi può essere una gran fortuna. Sappiamo bene poi che anche l'anno scorso, quando l'Inter prese lo Schalke 04, saltarono dei tappi di champagne, poi bisogna vedere cosa succede in campo, e quindi in ogni caso l'Apoel è un avversario da prendere assolutamente.